Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Agli uomini consapevoli, quelli che come noi provano orrore di fronte a questi femminicidi che si ripetono, voglio dire: non lasciateci sole, unitevi a noi. Dobbiamo unire le forze per proteggere le nostre ragazze. Invece ai violenti dico: rassegnatevi, perché noi non rinunceremo mai ai nostri diritti. Noi donne e le nostre ragazze non rinunceremo mai alla libertà, quindi rassegnatevi. Cos'altro aggiungere a questo bellissimo messaggio della Presidente della Camera Boldrini a proposito appunto di questa mattanza che continua delle donne? E ha colto tra l'altro la Presidente della Camera Boldrini, che era ascoltatrice, che era ascoltatore, oggi questa iniziativa che è partita con un battage sui social di appendere un drappo rosso alle proprie finestre, rosso come il sangue versato dalle tante donne. Varie persone l'hanno fatto, comune cittadini e cittadine, e anche appunto la Presidente della Camera Boldrini dalla finestra di Montecitorio, così come anche la sottosegretaria al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Dorina Bianchi, e anche alcuni sindaci, per esempio come Enzo Bianco a Catania, oppure Dario De Luca a Potenza. E era nata appunto come un'iniziativa spontanea, e poi molti hanno aderito a questa cosa del drappo rosso. Stasera parleremo anche di questo, naturalmente. Ci sono delle novità sul caso della povera Sara di Pietrantonio a Roma, con l'ex fidanzato che continua a raccontare bugie, e poi invece sono venuti fuori altri particolari. Ma l'argomento che sottopongo questa sera per le vostre opinioni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori: siamo non solo a venerdì e come sempre c'è il bilancio della politica della settimana con Effetto Notte, ma siamo praticamente alla vigilia, a due giorni dal voto delle comunali. Domenica 5 giugno si vota in moltissimi comuni, poi ve lo dico più nel dettaglio, in particolare in alcune città più importanti c'è questa battaglia forte. Probabilmente Roma è la battaglia principale. Quello che vi chiedo è: siccome il Presidente del Consiglio Renzi continua a ribadire che sapete che ha dato maggiore importanza al referendum costituzionale di ottobre, dice questo voto non è sul governo, non riguarda il governo, non avrà ricadute sulla politica nazionale, è un voto locale, qualcun altro invece dice no, questo voto delle comunali di domenica nelle grandi città sarà decisivo per stabilire gli equilibri della politica in generale, della politica nazionale. E secondo voi che peso avrà? 349-238-6666, il numero per gli sms, oppure whatsapp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrivete le vostre opinioni. Secondo voi che peso ha? Questo è solo un voto locale oppure avrà anche una ripercussione sugli equilibri della politica nazionale? Pagina Facebook di Effetto Notte, il numero invece è 349-238-6666. Partiamo allora con i fatti principali, poi come sapete al solito entrerò nel cuore degli argomenti con vari ospiti. Elezioni comunali, ultimi comizi in piazza da mezzanotte, infatti scatta il silenzio elettorale. Il Presidente del Consiglio Renzi ribadisce: la partita vera è il referendum di ottobre. Immigrazione, le vittime del naufragio al largo di Creta salgono a 9, ma si teme che il bilancio possa essere molto più alto, perché secondo l'OIM sul barcone viaggiavano circa 700 migranti. Il femminicidio della Magliana: Sara era stata strattonata e aggredita dall'ex una settimana prima di essere uccisa da lui. Paduano deve rimanere in carcere perché una persona totalmente inaffidabile potrebbe darsi alla fuga, scrive la GIP. Avvelenata dal compagno al settimo mese di gravidanza, la donna, 33 anni, ancora in prognosi riservata, ricoverata a Bologna dopo aver bevuto una bibita gassata con soda caustica. Parigi, la Senna è ormai arrivata a oltre 6 metri, si attende il picco della piena, al riparo i capolavori del Louvre, ma c'è maltempo anche sul nord Italia. Dramma in Moto2, muore a 24 anni il pilota spagnolo Salom. Facebook, in arrivo una carica di nuove faccine che esalta il ruolo delle donne e anche la diversità razziale. Come non partire dunque dalla politica con le imminenti elezioni comunali? Ultime ore di campagna elettorale con i big della politica in campo alla caccia del voto degli indecisi prima del silenzio che scatterà alla mezzanotte, impegnato in un tour a sostegno dei candidati del PD che oggi lo porterà da Napoli a Ravenna passando per Bologna e Rimini. Matteo Renzi ribadisce che quello di domenica sarà un voto per i sindaci e non per il governo. La campagna elettorale non è importante per il governo. La campagna elettorale è importante per le città, perché il governo avrà altri momenti in cui sarà valutato, per esempio il referendum costituzionale di ottobre. Per Silvio Berlusconi invece appuntamento a Ostia a sostegno della candidatura di Alfio Marchini a sindaco di Roma. Sulla capitale punta anche il Movimento 5 Stelle, che ha scelto Piazza del Popolo per il comizio finale di Virginia Raggi, un'iniziativa che dovrebbe essere chiusa in serata da una telefonata di Beppe Grillo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso di immigrazione. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è oggi in visita a Lampedusa per inaugurare il Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo. E sul fronte migranti oggi un nuovo naufragio nel mare di Creta, nuove vittime. Il bilancio sale per il momento 9, ma si teme che possa essere decisamente più alto, perché l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dice che sul barcone viaggiavano circa 700 migranti. È un dramma senza fine, nuovi naufragi e altre vittime, questa volta al largo dell'isola di Creta, mentre altri morti sono stati trovati sulle spiagge libiche. Un barcone proveniente dall'Egitto e diretto verso l'Italia è semiaffondato, 75 miglia marine a sud di Creta. A bordo c'erano almeno 700 migranti, oltre 300 sono stati tratti in salvo. E poi in Libia, dove nella città costiera di Zuara la spiaggia si è riempita di oltre 100 corpi senza vita. Tante donne e bambini, molto probabilmente migranti morti nei naufragi della scorsa settimana in acque libiche. Nuove stragi dunque, nonostante il discusso accordo tra Turchia ed Europa, contro il quale si scaglia Amnesty International, chiedendo di non rispedire i richiedenti asilo in Turchia perché è lungi da essere un paese sicuro. Mentre a Lampedusa il capo dello Stato Mattarella inaugura il Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo. Questa è la porta d'Europa, dice, la base per un ponte tra i continenti. Il senso di umanità, il livello di civiltà che quest'isola ha manifestato è straordinariamente ammirevole. L'Italia e l'Europa sono debitori di riconoscenza a Lampedusa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Cambiamo completamente tema, ci spostiamo infatti a Trento al Festival dell'Economia. Autonomie e regioni, innovazione, immigrazione e Fondo Atlante sono solo alcuni dei temi affrontati oggi al Festival dell'Economia di Trento. Oggi però è stata la giornata della visita del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Sono tante le idee messe sul tavolo dal capo del Mise. Innanzitutto una conferma sul taglio dell'IRES, una legge sulla concorrenza, ma anche l'appoggio incondizionato al TTIP e l'attenzione ai tavoli di contrattazione per le aziende in crisi. Tra le priorità poi, insieme allo snellimento del Ministero e la soluzione del caso ILVA, c'è anche il riordino degli incentivi da fare entro settembre e su cui il ministro ha un'idea ben precisa. Potrebbe essere che da lì si liberino risorse per fare altre cose, anche in altri dicasteri, perché non è il senso, non è quello dell'appartenenza, non è cioè io devo tenermi gli incentivi e spenderli in ogni caso. Quindi il meccanismo sarà rivederli, soprattutto rivederli alla luce degli obiettivi che abbiamo in generale come governo. Ci possono essere obiettivi per cui gli incentivi non sono giusti, per esempio, non è il meccanismo giusto per perseguirlo, e quindi l'idea è quella di ragionarci con una mente molto aperta, anche all'ipotesi di ridurre le l'ammontare complessivo per liberare risorse e fare un'altra cosa. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento. E ora all'estero, in Francia, a Parigi, tra musei chiusi, la pioggia si attende la piena della Senna, che ha superato ormai 6 metri, ci sono disagi alla circolazione anche per i tanti turisti. La piena della Senna ha portato già a parziali esondazioni e costretto alcuni grandi musei parigini a chiudere i battenti e a far scattare piani di evacuazione a titolo per il momento preventivo. Ce ne parla Leonardo Martinelli, il nostro Leonardo da Parigi. Ciao. Ciao. Sei ancora con la canoa, Leonardo? No, non ancora. Senti, però a che livelli è arrivata la Senna? Ed è appunto soltanto una misura precauzionale questa di mettere a riparo i capolavori del Louvre, di chiudere i musei, no? Beh sì, precauzionale però necessaria, perché il livello ormai ha superato i 6 metri oggi. Secondo le previsioni del Ministero dell'Ambiente dovrebbe raggiungere il massimo, cioè 6,5 metri nella notte, però va detto che queste stime cambiano ogni momento. Prima dovevano essere 5 metri, poi 5,5 metri, aumentano diciamo progressivamente. Poi se si calcola che sono 6,5 metri, domenica scorsa era 1,5 metri la Senna, quindi è stato veramente un aumento rapido e sconvolgente. Per il momento però non ci sono ancora delle evacuazioni in città, quindi la situazione rimane sotto controllo. Tranquilla, per fortuna. Invece fuori Parigi è decisamente peggio. Eh beh sì, soprattutto a monte, dove ora la situazione sta migliorando, la piena sta scendendo e appunto sta scendendo a valle verso Parigi. Però nei giorni scorsi non ci sono stati solo disagi, sono stati 3 morti e ci sono 20.000 persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa. e ancora stasera 18.000 famiglie senza elettricità. Quindi la situazione in queste zone, che si trovano soprattutto a sud di Parigi, una città in particolare Nemours, che è a 80 km a sud di Parigi, è quella appunto più colpita, sono zone attraversate dalla Senna a monte rispetto a Parigi o dai suoi affluenti. Grazie Leonardo Martinelli da Parigi. Grazie. Speriamo insomma che ciao. La Senna si dia un po' una misura. E adesso torniamo al tema del femminicidio della Magliana con i nuovi dettagli sul delitto di Sara a Roma. Le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dall'assassino di Sara Di Pietrantonio, Vincenzo Paduano, vanno tutte in un senso: convincere che si è trattato di un delitto di impeto non preparato. Lo dice subito il 27enne a inizio interrogatorio, contesto che si sia trattato di un gesto premeditato. Poi spiega di avere portato sì con sé l'alcol, ma per dar fuoco all'auto del nuovo fidanzato di Sara, come suggeritogli da un amico, non per uccidere. Su quanto accaduto dopo afferma di non ricordare bene, anche perché, dice, fa uso di cannabis. Sulla notte dell'omicidio dunque i suoi ricordi sono confusi e potrebbe, anticipa Paduano, in futuro anche cambiare versioni già date. Secondo quella rilasciata oggi, Vincenzo avrebbe versato alcol nell'auto di Sara, sporcando per sbaglio anche la ragazza. Poi, mentre stavano discutendo, lui si è acceso una sigaretta e solo a quel punto il fuoco ha investito la giovane. Affermazioni queste giudicate inverosimili dal GIP, secondo il quale Paduano aveva lasciato il cellulare in ufficio la notte dell'omicidio proprio per non essere tracciato. Non volevo cedere alla tentazione di chiamare Sara, invece, la sua spiegazione. Emerge poi che Paduano avesse già maltrattato la sua vittima una settimana prima del delitto, strattonandola una volta che l'aveva incontrata con il suo nuovo fidanzato. L'aveva anche minacciata: te la farò pagare, le sue parole. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una morte su cui si indaga anche quella di Carlotta Benusiglio, la donna trovata morta martedì mattina in un parco milanese. L'autopsia effettuata oggi non avrebbe evidenziato segni di ferite o percosse. Non ci sono elementi per pensare a un'ipotesi diversa dal suicidio, affermano gli investigatori, anche se la procura milanese attende ancora l'esito degli esami tossicologici sul corpo della 37enne. Intanto c'è stato anche un tentativo di femminicidio. Una donna di 33 anni è stata avvelenata dal compagno al settimo mese di gravidanza. La donna è ancora in prognosi riservata, ricoverata a Bologna dopo aver bevuto una bibita gassata nel quale l'uomo ha versato una sostanza corrosiva. E siamo di nuovo all'estero, anche per capire come questo fenomeno è praticamente, fa parte della globalizzazione, ma della globalizzazione della cultura atavica. Nuovo orrore dell'ISIS a Mosul, roccaforte dello Stato Islamico, il sedicente Stato Islamico nel nord dell'Iraq. Bruciate vive 19 ragazze yazide, che fanno parte della popolazione di origine lingua curda e con religione che è proprio lo yazidismo, per essersi rifiutate di fare sesso con i combattenti dell'organizzazione terroristica, così come riferiscono oggi i media locali. La notizia viene confermata anche da diversi siti locali come Ara News, che cita attivisti del posto e aggiunge un agghiacciante particolare sull'esecuzione di queste ragazze, che sono state messe in gabbie di ferro nel centro di Mosul e bruciate a morte di fronte a un centinaio di persone dopo aver gettato sulle vittime della benzina. E c'è un lutto nel mondo del motociclismo. Sognava il Gran Premio di casa lo spagnolo mallorchino 24enne Luis Salom, pilota della Moto2 sul circuito di Montemeló, ha invece purtroppo trovato la morte durante le prove libere del GP di Catalogna. La morte torna a far visita al moto mondiale. Luis Salom era un eccellente pilota di Moto2, aveva 24 anni e questo doveva essere il Gran Premio di casa sua, Barcellona, per lui nato a Palma di Mallorca. Maledetto venerdì di paura. Salom si è schiantato alla curva numero 12 del Montmeló, ma questa è pura cronaca. Come la corsa all'ospedale, inutile per un pilota bravo e promettente con 9 vittorie in Moto3, ma anche questa è pura cronaca, piuttosto inutile. La verità è che questi ragazzi sanno bene di fare un mestiere meraviglioso quanto pericoloso. Non è cinismo, ma realtà. E adesso un velo cala sulla Spagna e su una corsa che non importerà più a nessuno. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E peggiorano di ora in ora le condizioni dell'ex pugile Muhammad Ali, Cassius Clay, ricoverato ieri in un ospedale di Phoenix in Arizona per una crisi respiratoria. Preghiere e benedizioni per il più grande di tutti i tempi. Aveva twittato così ieri Sugar Ray Leonard appena appresa la notizia del ricovero del suo idolo, il tre volte campione del mondo dei pesi massimi, Muhammad Ali al secolo, Cassius Clay. La famiglia aveva subito rassicurato i fan parlando di lievi problemi respiratori e prevedendo una breve permanenza dell'ex pugile in ospedale. Le notizie che arrivano da Phoenix, però, tracciano uno scenario più preoccupante di quanto si pensasse in un primo momento. Il morbo di Parkinson, di cui Ali soffre da oltre 30 anni, avrebbe contribuito contribuito ad acuire la crisi respiratoria. L'ex campione, 74 anni, era sembrato estremamente debole nella sua ultima apparizione pubblica il 9 aprile scorso, proprio durante una serata di raccolta fondi contro il Parkinson. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al tennis, saranno Djokovic e Murray rispettivamente numero 1 e numero 2 al mondo a giocarsi domenica agli Open di Francia. Il serbo si sbarazza in 3-7 dell'austriaco Thiem, allo scozzese ne servono 4 per battere lo svizzero Wawrinka. Comunque vada a finire domenica l'Albo d'Oro del Roland Garros. Arricchirà di un nuovo nome. Nessuno dei due finalisti, infatti, di quelli che ho citato, Djokovic e Murray, mai riuscito a imporsi sulla terra rossa di Parigi. Per quanto riguarda invece il tennis femminile, chiamata alla terza vittoria in 4 anni agli Open di Francia, è Serena Williams, che in finale dovrà vedersela con la spagnola Muguruza, numero 4 al mondo. E per chiudere, un po' di leggerezza anche qui: Facebook e le faccine, in arrivo una carica di nuove emoticons, come si chiamano le faccine dei social network e chat, con Facebook che esalta il ruolo delle donne e anche la diversità razziale. Il consorzio Unicode ha approvato infatti 72 nuove faccine, il cui lancio è previsto per il 21 giugno. L'obiettivo è di rendere queste emoticon, queste faccine più rappresentative del mondo in cui viviamo. Quindi un aggiornamento, un ammodernamento, insomma, un adeguamento ai tempi che corrono. Allora, ci lasciamo brevemente per aggiornare chi sta viaggiando. Per esempio anche Giuliano da Pistoia, che dice: ciao Roberta, rieccomi qua, pronto all'ascolto dal camion prima di una settimana di ferie. Benissimo Giulio, buon per te. Ricordati che anche in ferie si può benissimo ascoltare Effetto Notte. Anzi, visto che magari sarai più isolato dall'informazione, eccomi qui ogni sera. Poi saluto Sergio da Milano e poi ringrazio anche Gianni, che dice: imperdibile, imperdibile Effetto Notte. Così anche Roberta, sei sempre brava. Tanti complimenti. Ma quello che vi chiedo questa sera è di rispondere a questa domanda a proposito del dibattito che c'è: quanto conta questo voto delle elezioni comunali da un punto di vista politico nazionale? Domenica si vota, Renzi continua a ribadire che in realtà è un voto che è importante per le città, non per il governo nazionale. Altri invece dicono: no, avrà un suo peso politico nel riequilibrare un po', appunto, le forze politiche. E c'è Simone sulla pagina Facebook che scrive: ogni voto ha un valore politico, non è vero però che dopo le amministrative negative un governo eletto debba dimettersi. Il problema è che da noi di governi eletti se ne vedono pochi. D'Alema si dimise dopo le regionali, ma era salito al potere con il ribaltone di Cossiga e colleghi. Ma Alessandro dice: Renzi dice così perché ha paura di constatare un eventuale crollo di consensi, ma se si dovesse ripetere il risultato delle europee, tra parentesi dice: sono terrorizzato al solo pensiero, non perderà un solo secondo a sbandierare la vittoria del governo. E poi c'è Roberto: ma io credo che sì, ha un valore molto forte, ci sarà una riflessione ampia nei partiti, ma il vero voto politico è il referendum, dove prima lancia il sasso, poi nasconde la mano per quanto riguarda le dimissioni del Presidente del Consiglio, eccetera eccetera. Altri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, poi al 349-238-6666, mi sembra di dirlo sufficientemente lentamente, 349-238-6666, poi ve lo ripeto tante volte, sia per gli SMS che per i WhatsApp. Ci sentiamo a momenti. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it. Vi presento Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Giusto, rieccoci insieme. Qualcuno sta facendo il lungo ponte da ieri, qualcun altro invece sta partendo questa sera, altri sono interessati giusto al fine settimana, qualcun altro lavorerà anche in quell'occasione. Naturalmente Effetto Notte è qui per tutte e per tutti. I vostri messaggi al 349-238-6666, SMS, WhatsApp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per dire questa sera, visto che siamo alla vigilia del voto di domenica 5 giugno, con le città più importanti, ma non solo, tanti comuni, ne parleremo tra poco. Secondo voi ha un peso politico nazionale questo voto, o come dice Renzi riguarda solo le città, non riguarda il governo, perché è più importante invece sul governo, sulle ricadute, sull'esecutivo, il referendum di ottobre? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi comodamente giorno e notte, alla quale potete anche aderire senza indugio. Basta che mettiate Effetto Notte trattino Roberta Giordano, lo trovate senza problemi. Tra poco allora faremo il bilancio della politica della settimana, ma intanto ogni tot vi faccio anche un bilancio delle notizie più importanti della giornata. Elezioni comunali, ultimi comizi in piazza, da mezzanotte infatti scatta il silenzio elettorale. Il presidente del Consiglio Renzi ribadisce: la partita vera è il referendum di ottobre. Immigrazione, le vittime del naufragio al largo di Creta salgono a 9, ma si teme che il bilancio possa essere molto più alto, perché secondo l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sul barcone viaggiavano circa 700 migranti. Il femminicidio della Magliana, Sara, era stata strattonata e aggredita dall'ex una settimana prima di essere uccisa da lui. Paduano deve rimanere in carcere perché una persona totalmente inaffidabile potrebbe darsi alla fuga, scrive la GIP. Avvelenata dal compagno al settimo mese di gravidanza, una donna di Bologna di 33 anni ancora in prognosi riservata, ricoverata all'ospedale di Bologna dopo aver bevuto una bibita gassata con una sostanza corrosiva, appunto messa dal compagno. Parigi, la Seine è ormai arrivata oltre i 6 metri, si attende il picco della piena, al riparo i capolavori del Louvre, maltempo anche sul nord Italia. Dramma in Moto2, muore a 24 anni il pilota spagnolo Salom. E per Facebook, novità, in arrivo una carica di nuove faccine che esaltano il ruolo delle donne e anche la diversità razziale. Quindi siamo al bilancio della politica della settimana, come sempre ogni venerdì. È un venerdì questo però un po' speciale, perché a 2 giorni dalle elezioni comunali coincide praticamente con il bilancio delle campagne elettorali nelle varie città, perlomeno nelle principali: Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino, ma ci sono anche Cagliari, Trieste, eccetera. Ormai siamo proprio alle battute finalissime, perché da mezzanotte scatta il silenzio elettorale, quindi né i media possono più parlarne e neanche ci possono essere comizi elettorali. Quindi ultime battute per gli appelli, comizi. Il presidente del Consiglio Renzi, alla vigilia di queste elezioni, ribadisce, come vi dicevo, che il voto di domenica non è un voto politico, un voto che può avere ricadute sul governo, non è un voto importante per la politica nazionale, ma riguarda le città, è importante per le città. Cosa ne pensate? 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Altri ritengono invece che la prova delle comunali di domenica, soprattutto nelle grandi città, sarà decisiva per stabilire gli equilibri della politica. Di sicuro il voto a Roma è considerato diciamo la madre di tutte le battaglie. E qui saluto Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Quindi voto a Roma, e poi parliamo anche di come si sono spesi un po' i leader dei partiti, i big, no? Da Renzi a Berlusconi a Grillo, anche Salvini. Dico bene su Roma, insomma, è la capitale. Ci sono... Allora, diciamo che Roma, sicuramente domenica ci sono due aspetti che vanno visti. Domenica. Uno è chi arriverà a Roma al ballottaggio, cioè chi sfiderà la Raggi, che è la candidata dei 5 Stelle, perché è data scontato il suo arrivo al secondo turno. Tra l'altro, scusi, ti interrompo Barbara, sì. La Raggi è stata quella che ha avuto l'onore, diciamo una volta in positivo, una volta un po' più in negativo, di essere sulle prime pagine copertine di giornali internazionali. Qualche giorno fa sull'Economist, che diceva paragonabile a una candidata dei democratici americani, oggi sul Financial Times, che invece sì, diciamo era meno lusinghiero, però comunque si è conquistata, diciamo, questa vetrina internazionale, no? Eh sì, anche perché comunque le novità fanno sempre gola ai corrispondenti esteri. È una donna, è del Movimento 5 Stelle, contro sì, l'establishment, come si dice, quindi sicuramente... Sì, sì, sì. Diciamo che appunto lei è data come favorita, il rischio per il Movimento 5 Stelle è soltanto la sconfitta, è talmente favorita che se non ce la facesse sarebbe un tracollo per i 5 Stelle. Allo stesso tempo però c'è un'altra sfida, che è quella del ballottaggio, dicevo, cioè di arrivare alla sfida finale con la Raggi. E qui sono 3 i competitor. Uno è quello del PD, cioè Roberto Giachetti, e poi ci sono Alfio Marchini, che è sostenuto da Berlusconi, e Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che è sostenuta dalla Lega, ed è una sfida tutta all'interno del centrodestra. Quindi è una sfida nella sfida, diciamo, Roma. Però è chiaro che per Renzi già il raggiungimento del ballottaggio da parte di Giachetti sarebbe un'ottima notizia. Diverso è il caso milanese, che forse è la partita per il premier più importante, perché Sala è visto un po' come il candidato scelto proprio da Renzi. E perché poi a Milano non c'è la scusa che può esserci a Roma, cioè di una eredità pesantissima, qual è stata quella di Mafia Capitale e dello stesso sindaco Ignazio Marino. Cioè. Sì. A Milano governava una giunta di centrosinistra guidata da Pisapia sostiene Sala, però il candidato del centrodestra, che qui Marcia Unito Stefano Parisi ha guadagnato parecchi punti, quindi sarà interessante domenica sera intanto vedere quanti sono i punti di distanza tra l'uno e l'altro, anche perché c'è chi scommette su un recupero forte di Parisi al secondo turno, cioè al ballottaggio, in quanto su di lui si potrebbero convogliare i voti degli anti-Renzi, sia di sinistra che di destra, che è un po' questo poi il rischio che corre il Partito Democratico in queste amministrative, un po' lo stesso che si corre sul referendum di ottobre, cioè è in alcuni casi un voto contro il Premier. Quindi a Milano, così come per esempio anche a Torino, dove Piero Fassina è dato fortemente in vantaggio sulla candidata dei 5 Stelle, Chiara Appendino, ma se non ce la facesse al primo turno, come appare probabile, sull'Appendino già Salvini ha detto pronto a convergere, a chiedere ai suoi elettori di votare l'Appendino contro Fassino, e lo stesso potrebbe fare a Roma anche, no? Aveva detto però anche Salvini anche a Roma poi diciamo che a Roma è stato un po' un boomerang, l'aveva detto la stessa Meloni che se non fosse arrivato al ballottaggio avrebbe votato la Raggi. Però è un boomerang, perché quando c'è un candidato che si presume forte non si prospetta mai un voto a favore di un altro candidato. E infatti la Meloni poi su questo è tornata indietro e si dice certa di raggiungere il ballottaggio. Comunque è chiaro che appunto avremo un po' una prima prova per il Premier di quello che potrebbe avvenire ad ottobre, ovvero se il voto anti Renzi si coagula anche nelle urne per i sindaci, dove di solito la scelta del sindaco è una scelta più legata proprio alla città, alla persona. Se invece si coagulassero i consensi contro il Premier, i candidati del PD potrebbero pagarne un prezzo molto elevato. Adesso qui qualche ascoltatore dice, per esempio Gianni, il voto di domenica è tanto importante quanto il numero di chilometri percorsi in campagna elettorale da Renzi a supporto dei suoi candidati. Speculazioni politiche di bassa lega, dice Gianni, perché qualcuno dice, se dice che è più importante il referendum di ottobre perché ha sostenuto i suoi candidati, anche se a dir la verità, come ce l'avevamo detto già qualche giorno fa, giusto così un po' in finale di corsa si è un po' speso per Giachetti, sì. No? Qualche giorno sì, fa, no, si è speso per tutti, oggi era a Bologna, ieri era anche dalla Valente a Napoli, ha concentrato diciamo negli ultimi giorni. Sì, negli ultimi giorni, ma ha sempre detto Renzi che il voto decisivo è quello di ottobre, e la pensano così anche i suoi come dire critici. C'è da dire però che quando un Premier subisce una pesante battuta d'arresto alle amministrative è comunque un segnale preoccupante, e qualora, ripeto, dovesse non andare al ballottaggio Giachetti e essere sconfitto Sala a Milano, per Renzi si metterebbe male. Ecco perché appunto la partita poi in questa tornata di amministrative, la partita sui sindaci, purtroppo, dico purtroppo perché dovrebbe essere invece una sfida sul merito, sui programmi, e invece in questo caso mi sembra che sia proprio una partita tutta politica, tutta di politica nazionale, più che sulle singole città, che infatti non conosciamo neanche bene le differenze tra un candidato e l'altro. Cioè a Roma ad esempio la candidata dei 5 Stelle viene appunto vista come una candidata diversa da quelli che hanno governato prima, però insomma alcune uscite un po' estemporanee della Raggi, che appunto oggi sono state anche, su cui anche oggi ha ironizzato il Financial Times, lasciano un po' sgomenti. Lo stesso discorso che lei è sostenuta dallo staff, il contratto che ha sottoscritto in cui praticamente si impegna a attuare quelle che sono le decisioni del vertice dei 5 Stelle, pena il pagamento di una penale da 150.000 euro. Insomma, diciamo, sono delle novità un po'. Un po' curiose. Tra l'altro Grillo, scusami, sì, di pure dall'altra parte. No, dicevo, dall'altra parte però abbiamo due fronti, cioè quello del centrodestra e del centrosinistra, che pagano una pesantissima incapacità di governare, in alcuni casi una collusione con la criminalità. Già. E quindi chiaramente un panorama variegato, e quindi l'ultima parola alle elettrici e agli elettori domenica 5 giugno, abbiamo detto che si vota. È stato interessante, sai, sì. Roberta, sarà anche quello di vedere quanti di questi elettori andranno a votare, perché una situazione in cui appunto se ricordiamo le prime volte che si votava per i sindaci, la partecipazione era molto alta, erano le prime elezioni dirette in cui si votava il candidato, no? Colui che avrebbe governato la nostra città. Adesso questa enfasi col passare degli anni si è persa, il numero degli di coloro che non votano si va sempre ampliando. Basti pensare che a Roma la volta scorsa Ignazio Marino è stato eletto con il 50% dei voti dei romani. Cioè, stiamo parlando comunque di politici che hanno uno scarso appeal rispetto alla cittadinanza, e questo dovrebbe far riflettere tutti. Giusto. I partiti. Qualche riflessione effettivamente necessaria. Ricordo quindi che si vota domenica 5 giugno dalle 7 alle 23 in 1342 comuni, quindi sono tanti, al di là delle città più importanti. Aspettiamo con curiosità l'esito, allora, Barbara Fiammeri. Sì, decisamente sarà una lunga notte quella di domenica. buon voto a te. Ciao Barbara. Grazie, buonasera. Ciao, a tutti. Ciao, buona serata. Ancora qualche vostro messaggio prima di lasciarci brevemente per una breve pausa di ricreazione. Elena dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte, così voi potete scrivere lì, oppure al 349-238-6666, dice: dire che un voto, qualsiasi voto, non ha valore politico è un non senso. Se si vuole dire che il voto delle amministrative non debba avere come diretta conseguenza la messa in crisi del governo, allora sì, penso di poter concordare, ma forse dobbiamo intenderci sul termine valore politico. Cristiano scrive: una traccia politica, grande o lieve, rimane sempre in elezione, ma fra fiumi di ipocrisia e retorica ognuno alla fine aggiusterà il proprio tiro. Enrico commenta così: tutti i voti sono politici, se un candidato è di un partito in ogni caso rappresenta un'ideologia nazionale. 349-238-6666 per messaggio WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte per dire se secondo voi ha ragione Renzi o chi sostiene questa tesi, che questo sulle città non è un voto che possa avere ripercussioni a livello di politica nazionale. Al contrario, altri pensano che invece possa un po' ridisegnare gli equilibri della politica e anche avere qualche ricaduta sul governo. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie ve le ricordo tra pochissimo. Roberta Giordano sempre con voi, e vedo ancora tanti messaggi a proposito del quesito che vi ho lanciato questa sera, visto che siamo alla vigilia delle elezioni comunali. Come la pensate? Come dice Renzi, che in realtà il voto per le città è un voto importante appunto per le città, per i sindaci, per le persone che vivono in quelle città, ma non ha ricadute sulla politica nazionale. Invece altri pensano che abbia comunque una valenza molto politica e a livello ben più ampio che non locale. 349-238-6666 per i vostri sms o per i vostri WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Salvatore dice: alla vigilia di un referendum istituzionale al quale sono oggettivamente legate le sorti del governo e del paese, dice: assurdo anche solo pensare a dimissioni dopo un voto amministrativo, altrimenti tanto varrebbe eliminare le amministrative accorpandole alle politiche. Poi tra parentesi aggiungere: naturalmente assurdo in un paese così fortemente decentrato come il nostro. Luciano: per me le votazioni servono anche ai politici per capire se ciò che stanno facendo sia di gradimento al popolo. Se fossi io al posto di Renzi mi preoccuperei di portare le persone a votare. Gianluca: la mia opinione è che bisogna avere coraggio, il signor Renzi non ha coraggio, ha una gran paura di perdere, per sicurezza tiene lontano il rischio non dando importanza a un'ottima cartina di tornasole che sono le comunali. Continuate con le vostre opinioni, pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, oppure gli sms e WhatsApp al numero che conoscete ormai, 349-238-6666. E ora, prima di passare al prossimo argomento, quindi se avete acceso la radio adesso anziché puntualmente alle 21, vi ricordo comunque le notizie più importanti. Elezioni comunali, si vota domenica 5 giugno, quindi ultimi comizi in piazza da mezzanotte, da questa mezzanotte di stasera, insomma, scatta il silenzio elettorale. Il presidente del Consiglio Renzi ribadisce: la partita vera è il referendum di ottobre. Immigrazione, le vittime del naufragio al largo di Creta salgono a 9, si teme però che il bilancio possa essere decisamente maggiore. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, infatti, sul barcone viaggiavano circa 700 migranti. Il femminicidio della Magliana: Sara era stata strattonata e aggredita dall'ex una settimana prima di essere uccisa da lui. E poi un'altra donna di 33 anni a Bologna, avvelenata dal compagno al settimo mese di gravidanza. Lui è stato arrestato, le avrebbe bevuto questa bibita gassata con dentro soda caustica. Parigi, la Seine è ormai arrivata oltre i 6 metri, si attende il picco della piena, al riparo i capolavori del Louvre, ma anche in Italia, nord Italia, c'è maltempo. Dramma in Moto2, muore a 24 anni il pilota spagnolo Salom. Agli uomini consapevoli, quelli che come noi provano orrore di fronte a questi femminicidi che si ripetono, voglio dire: non lasciateci sole, unitevi a noi, dobbiamo unire le forze per proteggere le nostre ragazze. Invece ai violenti dico: rassegnatevi, perché noi non rinunceremo mai ai nostri diritti. Noi donne e le nostre ragazze non rinunceremo mai alla libertà, quindi rassegnatevi. Questo è il forte appello che ho fatto sentire anche all'inizio della Presidente della Camera Laura Boldrini dopo l'ennesimo femminicidio. Poi ha aderito a questa iniziativa dei drappi rossi che vari gruppi di donne hanno lanciato sui social, di attaccare un drappo rosso come il sangue versato continuamente dalle donne in questa mattanza senza fine dalle proprie finestre. Lei lo ha fatto, la Presidente della Camera, dalla finestra di Montecitorio. Questo è scaturito ulteriormente da un femminicidio che ha toccato molti, diciamo che sono talmente tanti e costantemente questa indifferenza che li avvolge li fa passare così in secondo piano. Questo in particolare della 22enne di Roma, Sara Di Pietrantonio, ha colpito anche più di altri. È stata barbaramente uccisa, ve lo ricordo, nella notte tra il 28 e il 29 maggio nel quartiere della Magliana di Roma dal suo ex fidanzato Vincenzo Paduano, 27 anni, reo confesso dopo una notte di interrogatori. L'assassino era stato lasciato da lei da pochi giorni, dopo 2 anni di relazione di alti e bassi. Gli inquirenti poi ha confessato: sì, l'ho uccisa io, non sopportavo che fosse finita. Che cosa ha fatto? Questa è la sequenza anche ripresa da alcune telecamere di sorveglianza. Lui l'ha speronata con l'auto, costretta a fermarsi, a scendere dalla sua auto. Prima è entrato nella macchina di lei, l'ha cosparsa di alcol, poi lei ha cercato di scappare, l'ha inseguita. Secondo l'autopsia poi l'ha tramortita, l'ha strangolata e le ha dato fuoco. Lui non fa altro che raccontare bugie, così dice la PM, perché ha detto: sa, io fumo le canne, quindi non ricordo bene come è andata, in realtà non mi ero portato dietro la bottiglietta d'alcol per dar fuoco a lei, ma erano degli amici che mi avevano consigliato di dar fuoco all'auto del suo nuovo fidanzato, poi in realtà mi sono avvicinato a lei che si era sporcata di alcol e mi è caduta la sigaretta. Insomma, naturalmente, dice la PM, il suo racconto non l'ha convinto per niente, una ricostruzione che non corrisponde a quanto emerso dagli accertamenti e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Dice: deve restare in carcere Vincenzo Paduano perché è una persona totalmente inaffidabile, scrive la GIP, e potrebbe darsi alla fuga. Tra l'altro, dice Paduano, non ha avuto neppure un attimo di ripensamento in questa vicenda. Ci sono vari momenti in cui si sarebbe potuto fermare, invece è andato avanti, e in più poi dopo è ritornato al lavoro per cercare di creare anche una situazione di normalità. Poi l'avete sentito, il giorno dopo della barbara uccisione di Sara Di Pietrantonio c'è stato un omicidio-suicidio, anche questo abbastanza classico, nel Milanese, un uomo, un quarantenne, che ha ucciso a coltellate la moglie e poi si è suicidato. E poi avete sentito anche di questa vicenda di Bologna con una donna di 33 anni incinta di 7 mesi, il suo compagno le ha versato della soda caustica nella bevanda che lei stava appunto bevendo, una bevanda gassata, adesso in prognosi riservata all'ospedale di Bologna. Ne parliamo con Ilaria Boiano, avvocata penalista di Differenza Donna. Buonasera. Buonasera. Differenza Donna, che lo ricordo, è un'associazione che da più di 20 anni gestisce i centri antiviolenza a Roma ed è un centro di riferimento, insomma, di lotta, di contrasto da sempre contro la violenza sulle donne. Boiano, questo appello di Laura Boldrini, che effetto le fa? Beh, questo appello è sicuramente significativo proprio della volontà e della determinazione con cui le donne nel nostro paese e nel mondo, perché il problema la questione della violenza è una questione che ci colpisce tutte in ogni paese in modo trasversale, no? È notizia della settimana scorsa anche la grande sollevazione delle donne brasiliane contro vicende violenze di massa che ci sono, violenze, no, da tempo. Sì, sessiste che ci sono, lo stupro di una ragazza da parte di 33 uomini che ha visto appunto la sollevarsi di un movimento di protesta molto forte, e la protesta è più che altro la rabbia che in questi giorni manifestiamo in varie parti del mondo, in particolare in Italia a seguito della vicenda di Sara, è che è solo una delle tantissime, naturalmente. È una delle tantissime. Solo in una settimana tre sono successe. Tre, esatto, caso. Quindi diciamo che esatto, da gennaio sono i numeri poi sono sempre relativi, perché dobbiamo capire quante sono nascoste, quante non sono arrivate fortunatamente all'epilogo finale. L'appello della Boldrini sicuramente ci richiama alla questione fondamentale che è alla base, che è dietro questi tipi di comportamenti, e cioè non accettazione di libertà e di delle donne, della libertà in prima di tutto quella di dire di no. Infatti è di da poco recente l'ultima indagine della Istat pubblicata a cura della ricerca della dottoressa Linda Laura Sabbadini, che sì, evidenzia come negli ultimi anni ci sia stata una forte emersione della violenza, quindi una grande presa di consapevolezza delle donne grazie anche e soprattutto al lavoro dei centri antiviolenza. Però Ilaria Bogliano, avvocata Bogliano, a fronte di questa consapevolezza maggiore delle donne, però ci sono ancora tantissimi uomini che non hanno mai fatto nessuna riflessione su questo, e anzi io li chiamo tanti negazionisti che dicono non esiste il femminicidio, non è un delitto specifico, un omicidio come un altro, anzi molti lamentano di trattare questi omicidi di serie A come se altri fossero di serie B e quasi si sentono, no, come fosse un privilegio delle donne questo di essere uccise, di considerarlo e questo un è uno degli specifico. Elementi è anche uno degli elementi che in qualche modo diminuiscono l'efficacia degli strumenti giuridici che abbiamo nel nostro paese, perché ancora sono diffusi nelle aule giudiziarie, presso le forze dell'ordine, lo stereotipo per il quale, ma anche tra la gente comune, sì, sì, per il quale la denuncia di maltrattamento, la denuncia per stalking sono denunce strumentali, cioè sarebbero volte ad ottenere finalità diverse, per esempio in fase di separazione, condizioni di separazione o di affidamento dei migliori più vantaggiosi. Il problema quindi di fondo qual è? Che ancora non si ha fiducia nella parola delle donne, quindi le donne immediatamente colgono la paura e quindi il pericolo che stanno vivendo. Possiamo dire, avvocata Bogliano, possiamo dire con delle parole forti alle donne, alle ragazze, che quando c'è un uomo che scambia l'amore con la possessività, e loro stesse poi rischiano di scambiarlo, no? Atteggiamenti aggressivi e possessivi come il tenerci al loro amore, eccetera, sono uomini invece che da tenere a distanza immediatamente. Assolutamente, questo è un nodo fondamentale che andrebbe affrontato in maniera sistematica e radicale a partire dai primi livelli di formazione e di educazione, perché è una cultura che si sta riaffermando e rafforzando nelle società oggi. Certo. I rapporti sono descritti e dipinti come rapporti possessivi, come rapporti di controllo l'uno sull'altro. E il problema è che tra l'altro è molto trasversale, non sono uomini, magari uno potrebbe pensare, di bassa istruzione o di categorie particolari. Guardi, no, è molto trasversale. Le posso fare proprio un esempio preciso. Noi siamo dall'89 che accogliamo donne che hanno fatto esperienza di violenza maschile nella loro vita. Il trend che possiamo come dire, rappresentare degli ultimi anni è che questa violenza continua dopo la separazione. Paradossalmente noi abbiamo donne separate che si rivolgono adesso alla nostra associazione. Perché perseguitate. Poi mi dico un'ultima cosa, avvocata Bogliano. È vero che troppo spesso, intanto abbiamo capito che non c'è abbastanza consapevolezza e volontà di concretezza, di agire concretamente da parte delle istituzioni, sia politiche, sia delle forze dell'ordine, eccetera. Altrimenti non saremmo a questo punto, oltre che anche della mentalità generale. Però Può essere effettivamente che spesso quando ci si trova a dover condannare con sentenza uomini che hanno ucciso delle donne, spesso quasi li si comprende, si danno delle pene un po' troppo basse, o sbaglio? Allora, guardi, in senso generale, per essere proprio, come dire, onesta intellettualmente, si deve dire che nel nostro ordinamento si sono fatti dei grandissimi passi avanti dal punto di vista legislativo. Adesso abbiamo il quadro della Convenzione di Istanbul che ci rafforza anche nelle nostre richieste e pretese in sede proprio di applicazione. E laddove vi è una forte sinergia e una collaborazione con le organizzazioni delle donne impegnate, i meccanismi si mettono in moto. Il problema però che manca nel nostro paese, così come in tanti altri, è quell'altro ambito a cui richiama la Convenzione di Istanbul, cioè un impegno in politiche e in cultura, in modifica, perché la radice come è stato codificato dalla Convenzione di Istanbul è questa simmetria di potere e disuguaglianza storica tra uomini e donne, e questa cosa si combatte va nel tempo con molta fatica. Grazie intanto, avvocata Ilaria Bogliano, grazie anche alla vostra associazione. Grazie per questa possibilità. Grazie, continuate così. Noi ci lasciamo brevemente, Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se siete su Effetto Notte, siete al posto giusto nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vi ricordo molto brevemente le notizie più importanti mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Elezioni comunali, ultimi comizi in piazza, da mezzanotte scatta il silenzio elettorale. Immigrazione, le vittime del naufragio al largo di Creta salgono a 9, ma si teme che il bilancio possa essere molto più alto. Il femminicidio della Magliana, ne abbiamo appena parlato. Sara era stata strattonata e aggredita dall'ex una settimana prima di essere uccisa da lui. Avvelenata dal compagno al settimo mese di gravidanza, la donna di 33 anni è ancora in prognosi riservata, ricoverata a Bologna. Parigi, la Senna è ormai arrivata oltre i 6 metri, si attende il picco della piena. Europa 24 notte. Parliamo di giovani Europa, insieme possiamo fare la differenza. Questo è il motto della seconda edizione della European Youth Event che si è svolto il 20 e il 21 maggio a Strasburgo nella sede del Parlamento Europeo, che ha riunito 7.500 giovani fra i 16 e i 30 anni provenienti da 39 paesi differenti. Le conclusioni della due giorni verranno discusse con gli eurodeputati nelle prossime settimane. Per l'occasione è stata presentata l'indagine di Eurobarometro che ha dipinto un ritratto piuttosto sconfortante dei giovani europei. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Maurizio Molinari dell'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo. Quest'ultima indagine che ha commissionato il Parlamento Europeo non dà proprio un quadro molto confortante della situazione, però c'è la consapevolezza da parte di un buon numero di giovani europei e soprattutto ancora un maggior numero di giovani italiani dell'importanza di studiare all'estero. Per quanto riguarda l'Italia, diciamo che c'è un po' un paradosso, nel senso che il nostro paese si discosta dalla media europea in positivo per il riconoscimento dell'importanza di studiare all'estero e per la voglia di andare a studiare all'estero, ma in negativo invece per quelli che poi effettivamente ci vanno a studiare all'estero. Quindi l'Italia è maglia nera europea con solo appena il 5% dei giovani che hanno fatto un'esperienza all'estero fra i 16 e i 30 anni. Questo a fronte del fatto che invece, come dicevo prima, viene ritenuto abbastanza importante il fare un'esperienza all'estero. Quindi secondo me c'è un po' da chiedersi perché c'è questa discrasia. Un altro dato che emerge, che è secondo me significativo, è il fatto che in Italia vengono visti molto in maniera molto positiva i social media. I social media vengono visti come un fattore di democrazia, mentre in altri paesi, io penso soprattutto alla Francia, vengono visti come un fattore di potenziale rischio. Tornando un po' a quel senso di esclusione di cui parlavamo prima, i giovani credono di meno all'Europa, cioè l'Europa non viene vista più come un porto sicuro per rimediare in certo senso a questa esclusione? Ma penso che non si sottovaluti tanto neanche fra i giovani l'importanza dell'Unione Europea. Certo, c'è un po' di scetticismo, se vediamo i dati sul voto, su quanto è importante votare, vediamo un'Europa e un'Italia spaccata più o meno a metà fra chi pensa che votare sia importante e chi pensa che invece votare non lo sia. Però in realtà non vedo proprio una sfiducia nei confronti dell'Unione Europea, semmai quella forse c'è più nei cittadini adulti. Io adesso parlo un po' a impressione e parlo, diciamo, a titolo personale, non a nome del Parlamento Europeo, perché non posso suffragare questa tesi con i dati, però l'impressione che ho io è che in realtà l'euroscetticismo colpisca di più le persone, diciamo, i giovani adulti o gli adulti piuttosto che i giovani. I giovani ancora hanno la voglia di sognare, di credere in un progetto europeo. Io un'altra cosa che volevo sottolineare è che questo Eurobarometro dà un po' un quadro schizofrenico, secondo me, dei giovani, perché da un lato si sentono emarginati, ma dall'altro a questa emarginazione non fa il posto la volontà di dire: io sono emarginato dalla crisi, la crisi mi ha emarginato nel mio paese, non trovo lavoro, ho difficoltà, ma non fa scaturire la voglia di dire: ok, mi muovo, vado all'estero, voglio fare un'esperienza all'estero, o non con tutti. Secondo me questa è la parte, diciamo, più, fra virgolette, deprimente di questo Eurobarometro, perché dai giovani ci si aspetterebbe invece la volontà di reagire. Questa volontà di reagire, che invece non è generalizzata, secondo me è un po' preoccupante. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzoni, Trebimeteo, portatore sano di sole, ma mi sa che qui di sole ne porta poco ultimamente. È un po' pochino, Paolo. Sì, hai ragione. Buonasera Roberta, ma non è colpa mia, però ti dirò, nelle regioni meridionali questo weekend le cose andranno via lisce, con comunque un gran bel sole e anche temperature molto miti. Ma anche al centro-nord piano piano la situazione sta migliorando, ancora rischiamo qualche temporale, ma sempre meno diffusi, sempre meno intensi, insomma, durante il weekend anche al centro-nord un po' di sole lo vedremo. E come? Paolo, ma è normale questa situazione, queste piogge incredibili, questo scroscio, soprattutto qui al nord, a Milano? A un certo punto una pioggia tropicale, poi smette. Sì, guarda, in effetti situazione anomala. Comunque la primavera è per l'Italia una stagione piovosa. Quello che è veramente anomalo è quanto sta accadendo in Francia e in Germania. Era più di 100 anni che non avevano precipitazioni del genere, e probabilmente si inquadra tutto in un contesto di cambiamenti climatici di cui abbiamo già parlato e che si fanno sentire come. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare prossimamente? Ancora fino a metà giugno? Allora, guarda, per quanto riguarda l'Italia, in realtà già settimana prossima situazione più tranquilla, però questo mese di giugno credo che fino proprio all'inizio ufficiale dell'estate, quindi al 21, ancora ci farà un po' dannare, ma guardate, l'estate arriva e sarà bella, garantito. Se lo garantisce Paolo Corazzone, ci possiamo credere. Siamo a posto. Grazie Paolo, buon tempo a te. Grazie a te, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. E adesso sì, ci dobbiamo lasciare a questo punto. Sono arrivati ancora tantissimi vostri messaggi al 349-238-666, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi comunque. Cosa dire? Naturalmente sì, ci sentiamo alle 22, giusto per gli aggiornamenti. Tra poco.